Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Direttore sulla Puglia. Lei è una gallina. Lei è una gallina. Si è rilevato. Ha detto, lei si è rilevato per quello che è. Un maleducato, perché lei mi ha dato della maleducata. Sono quello, sono un maleducato e lei è una stronza. No, Vittorio! Vittorio! Mi attribuisca quello che ho detto, non quello che non ho detto. Barbara, ma non mi dico me. Deficiente che dice insensatezze. No, io non ho attaccato Briatore, non me ne frega niente di Briatore, lo conosco benissimo, l'ho anche difeso, ho detto che ho attaccato una tesi di Briatore che è un fatto specifico, cosa normale. Se lei dice un'altra cosa, vada a studiare e non rompe i coglioni, non mi attribuisca cose che non ho detto. Questo è un momento storico della televisione italiana, si era, mi sembra, fine anni 80, forse primi anni 90, non ho esattamente la data precisa. Vittorio Sgarbi da le poltroncine del Costanzo Show al Teatro Parioli dà della stronza a un insegnante, una sorta di violazione della sacralità del ruolo. Se ne parlo molto, oggi farebbe ridere, oggi figuriamoci, accade molto peggio e molto di più tra persone che fanno parte delle istituzioni, fanno parte anche, ricoprono cariche importanti. Oggi è molto più diffuso, allora però fece abbastanza scalpore, non tanto per la parola in sé, che è una parola già abbastanza ampiamente sdoganata, ma il fatto che fosse detto una professoressa. La professoressa ancora aveva avuto l'ardire di scrivere delle poesie, mi sembra di ricordare, una misera e povera velleità, e lui disse giustamente che questa censurò con una parolaccia, bollò con una parolaccia questo suo istinto, questa sua velleità poetica. Devo dire che ci sono delle pietre miliari dello sdoganamento alla parolaccia attraverso i media. Io ricordo nel 76 Cesare Zavattini, il padre del neorealismo italiano, durante un programma radiofonico, evidentemente voleva fare qualcosa di avanguardia, disse: adesso dirò una parola che non si è mai detta per radio, e la disse, e fu cacciato dalla RAI per anni. Lo incontrai dopo molti anni e mi disse che lui alla RAI aveva avuto una sorta di ostracismo, non poteva più parlare per aver detto questa parola, una parola che oggi è il contrappunto più banale in ognuno dei nostri discorsi. Questo significa che abbiamo sempre più ampiamente sdoganato l'uso della parolaccia. Le parolacce normalmente sono riferite a delle miserie fisiche. Le parolacce più usate hanno tutte, diciamo, l'origine nel fatto che descrivono attraverso un linguaggio colorito e popolare alcune parti del corpo, quelle preposte alle funzioni sessuali, alle funzioni fisiologiche. Banalmente le più usate parolacce sono proprio queste. Oggi notiamo che c'è una sorta di lussuria nel dire la parolaccia ha sconfinato rispetto alle categorie parolacciare per eccellenza. I giovinastri dicevano parolacce, le persone maleducate dicevano parolacce, le persone volgari dicevano parolacce, hanno cominciato a dire parolacce persone appartenenti a un coté culturale che doveva sdoganare un linguaggio borghese, un linguaggio addomesticato. La parolaccia era un gesto rivoluzionario. Poi tutto questo è passato, la parolaccia lentamente ha cominciato a tracimare da piccoli circhi ristretti, di conventicole al di fuori dei luoghi ufficiali in cui ci si scambiava il sapere, si pronunciavano discorsi importanti. La parolaccia si dice a scuola, le dicono i professori agli alunni, le dicono le nonne, le dicono le zie, le dicono normalmente anche i conduttori alla radio. A me normalmente mi viene ogni tanto dire qualche parolaccia che, vi giuro, 10 anni fa non avrei mai detto, ma oggi è talmente nell'uso comune, talmente sdoganato, che non sente più quella sorta di blocco, dire una parola un po' pesante, un po' forte. Beh, voi quando avete cominciato, se avete mai cominciato a oltrepassare la barriera della parolaccia. E che uso fate le parolacce? Le usate normalmente in famiglia, nei vostri rapporti personali, le dite alle persone care? O avete il doppio linguaggio? Un linguaggio è quello casalingo, infarcito di parolaccia, quello del lavoro, o quello degli amici, o quello dell'intimità. È un linguaggio più addomesticato. 800 24 00 24. Oggi risaliremo lungo la sdrucciolevole china costellata di quelle che sono sempre state chiamate parolacce. Mia nonna mette il pepe in bocca soltanto se dicevo scemo. Pensate come sono stato educato. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Che sia maledetto quel giorno che sono venuto da lei, perché io alla Marisa l'ho pagata 480.000 lire. E l'ho pagata, che cazzo c'entro io? Io che cosa c'entro adesso con tutto il castino che lei ha fatto con le ditte? Io non c'entro niente, io sono fuori e io domani mattina ritorno all'avvocato e vediamo un po' come si mettono le cose. Vorremmo una soluzione. Ma che soluzione? Ma che vuole solo, risolvere? Fra vent'anni, se sposa mia, via che cazzo me ne frega fra vent'anni? Io non ho capito perché voi mi volete appioppiare sta benedetta lavatrice. Io questo ancora non riesco a capirlo. Okay, no, io non ci metto l'avvocato perché mi avete rotto i coglioni. Io stasera stesso da lei. No, io sto a posto. Senta, per cortesia, io sto a posto. Io sta benedetta lavatrice l'ho pagata. Questo poveretto è Mario Magnotta, era un bidello di un istituto tecnico dell'Aquila, che era diventato bersaglio di scherzi telefonici. C'era una sorta di network, registravano questi scherzi, poi giravano e chiamavano il Magnotta, che si arrabbiava tanto, diceva un sacco di parolacce. Però allora ci stava, era l'esplodere della rabbia di una persona che si sentiva vessata. La parolaccia era lo strumento di reazione, lo strumento di esplosione di fronte a un'ingiustizia, cioè perché a un bidello fanno gli scherzi, lo prendono in giro in questa maniera. Antonino, buongiorno. Buongiorno Gianluca Nicoletti. Io sono siciliano e quindi tutti quanti sanno quale parola noi usiamo per intercalare i discorsi, oppure anche nell'uso comune per raccontare barzellette oppure per interfacciarsi con gli amici. Ecco appunto, però questa nostra propensione appunto a pronunciare quella parola deve essere fatta, secondo me. Sto pensando, Antonino, se sdoganare in questa trasmissione l'uso della parolaccia o fare un'operazione molto divertente di cercare di mimarla e evitarla. Ma la parola qual è? Comincia per M e poi c'è inchia, quella lì. quella lì, sì, ma come è sdoganata? Perché ormai non, se ne è persa anche l'accezione primaria, il senso. Io penso per molte persone minchia non sanno nemmeno cosa significhi, anche perché è una parola femminile che descrive l'organo sessuale maschile, quindi è un po' difficile se uno non entra nel contesto. Però ancora noi nel linguaggio corrente sicuro ancora c'è. Però è strano perché lo sticchio è maschio e la minchia è femmina, come mai? Non lo so, questo caso ce lo siamo chiesti in molti, e quindi, però dico, tornando al discorso di prima, io dico che sia di cattivo gusto comunque anche per persone delle istituzioni o comunque per persone che si presentano al pubblico, ecco, come un noto critico d'arte che sappiamo di pronunciarla molto spesso anche davanti alle persone. Io mi astengo perfino dal pronunciarla davanti a persone che non conosco o con le quali ho poca confidenza, anche se ci siamo tra amici e c'è una coppia di amici che non conosco, mi astengo anche dal pronunciarla, anche se ne faccio un uso un po'. Poi si rende conto, Nino, che ormai siamo talmente abituati che anche nei luoghi in cui ci vorremmo frenare non ne vediamo l'uso. Ormai ci viene, è un intercalare, ce n'è molto familiare. Io mi ricordo, ieri stavo facendo una lezione, un master, con uno studente molto gentile. Mi ha dato prima del lei, cioè le do del lei o del tu, come preferisce. E gli ho detto, ma come cazzo ti pare? Ma non c'ero nulla di male, mi veniva spontaneo. Poi ci ho pensato, ma poverino, sai che immagine si è fatto di me? Anzi, gli chiedo scusa in diretta. Che bisogno c'era che un docente dice così? Ma è talmente abituale questa cosa, che non è come depotenziata dell'uso irruento e dirompente che poteva avere. Le pensi che Zavattini, cacciato dalla RAI, perché volutamente, coscientemente, come provocazione, ha detto adesso dirò una parola che nessuno ha mai detto alla radio, disse cazzo, fu cacciato dalla RAI nel 76, perché era un gesto provocatorio. Oggi sembra quasi che se uno non lo dice manca qualcosa, manca una coloritura al linguaggio. Sentiamo Alessandro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, senta, volevo appunto ribadire quello che lei aveva detto all'inizio della trasmissione, che una volta le parolacce erano legate sempre a un elemento fisico, anche sessuale, e quindi c'era un tabù. Le mamme, se dicevi che a casa o vaffanque, allora pam, una sberla. Adesso questo elemento sessuale si è annacquato, non interessa più nessuno, il transgender, cosa fai, maschio, cioè non interessa. Mentre invece, per esempio, la bestemmia è rimasto un tabù assoluto, perché lì parliamo di Dio e quindi questo non si può assolutamente fare. Nel contempo... Sì, però Alessandro, dunque, mi renda conto, dunque, seguo la sua riflessione, sto parlando con... Nella televisione in cui è stato sdoganato ogni, diciamo, linguaggio colorito, linguaggio volgare, ancora nei reality show, che sono il regno della parolaccia, se vuole della volgarità, se vuole dell'esternazione di comportamenti intimi, ancora la bestemmia è sintomo di cacciata dal reality. C'è un elenco di partecipanti alle case del Grande Fratello cacciati perché gli è scappata una bestemmia. Qualcuno era toscano, per i toscani è come cantare una filastrocca o cantare una ninna nanna per bambini, dire bestemmie. Però ancora è vero, nella laica televisione, anche commerciale, ancora la bestemmia viene considerata come qualcosa che è terribile. Anche se poi in fondo io penso... A me non piace, le bestemmie non piacciono. Sono umbro come i toscani, quindi anche per noi è abbastanza normale. Ogni tanto tira giù qualche moccolo. Devo dire, se è un atto di fede, lo dice anche Malaparte, che in fondo i maledetti toscani, anche il bestemmiare è una sorta di riconoscimento della forza, della divinità. Chi ha fede veramente o chi veramente ha un senso del sacro non dovrebbe, almeno nella nostra religione, nel nostro contesto occidentale, sentire una bestemmia è semplicemente sentire una persona che giudichi male per il suo poco livello di civiltà, di educazione, via dicendo, perché c'è qualcosa di più della parolaccia, il voler offendere un sentimento religioso, forse per questo. Mi sente ancora? Sì, la sto sentendo. Sì, ma infatti è giusto, però invece faccio rilevare un altro aspetto. L'ascoltatore precedente, quando diceva parolaccia, rideva un pochino. Se lei, per esempio, ha un ragazzino piccolo, diciamo di 7-8 anni, dice culo, casa, niente, non ride. Ma se lei dice puzzetto, scorreggina, quello ride. E certo, fanno ridere. Perché si mette subito un po' in imbarazzo. Ma io rido ancora adesso. È ancora un elemento che fa ridacchiare. Alessandro, a me fa ridere ancora adesso, sarò infantile, ma mi fa ancora ridere. Dire puzzetto. Ridono. Invece questo elemento proprio legato alla sessualità, non interessa più, è una cosa decaduta, è diventata una parola qualunque. Ma adesso, allora, dove è sconfinata la parolaccia? A parte la bestemmia. Qual è, diciamo, il bouquet da cui si attinge per le nuove parolacce? Sono sempre le stesse, non mi sembra siano molto cambiate. No, è rimasto a livello di insulto. Cioè, se un intercalare non ha più valore, ma se un insulto, tu sei un... quello... Però dirlo fra amici, dai, non fare il coglione, è una cosa normale. Sì, anche quella è una troia. Sì, infatti i ragazzini mi ha fatto vedere che lo scrivono: sei una troia, ma è un complimento, come dire, mannaggia, guarda che stronzetta che sei. Io lo lascerei dire alla persona a cui è indirizzata questo tipo di apprezzamento, quanto sia complimento. Poi sul complimento in un gioco amoroso fra due persone consenzienti dirsi delle parolacce, però non credo che una ragazzina che si dica questa cosa faccia poi molto piacere. Ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, oggi stiamo parlando delle parolacce, la deriva del turpiloquio. Mi scrive un ascoltatore, non dobbiamo analizzare, perché la bestemmia in alcuni paesi viene punita con la morte. Beh, non sono paesi civili, non si punisce con la morte semplicemente uno perché dice una parola forte, mi sembra eccessivo. Nella Bibbia il turpiloquio rientra negli atti impuri, avere il concetto di atto impuro, cosa che non ho, e la bestemmia nel non nominare il nome del Dio invano. Ma se io dico la bestemmia rientra nel non nominare il nome del Dio invano, ho già nominato il nome di Dio invano. Dio invano, ho già detto Dio invano. È un po' difficile capirla questa cosa. Poi ci sono decine di messaggi, anche i vostri programmi, la zanzara, ci sono le parolacce, lo Zoo di 105 sono le parolacce. Cercate di capire la differenza. Sono programmi che hanno una cifra stilistica proprio. Sono programmi in cui c'è una scelta proprio di scrittura, di copione, di programma, di format, in cui si usa il linguaggio libro, un linguaggio che usate normalmente fra voi, fra amici, trasposto in uno dei templi della comunicazione che è la radio. Sono scelte, non è casuale, è proprio voluto, è così. È come dire, uno mette un vestito rosso, mette un vestito giallo, mette un vestito nero. Non potrebbe essere diversamente da così. Quella è la scelta, può piacere o non piacere, ma è una scelta, è una scelta di stile. Giuseppe da Frosinone. Pronto? Sì, l'ascolto. Pronto? Ah, senta, no, come stavo dicendo poc'anzi alla sua collaboratrice, per me era una questione forse di retaggio storico di... E ricordo che mia mamma, per una parolaccia, lei non voleva assolutamente che in casa si dicessero le parolacce, e così a mia sorella e mio papà non abbiamo mai detto parolacce in casa. E avevo questa, insomma, mi rincorse con la cucchiarella, il cucchiarello di legno, perché mi avevano rotto il fanale del mio motorino in paese dove vivevo prima, e praticamente me la sono portata dietro, quindi forse è un retaggio mio personale, però ritengo che sia veramente volgarità. E quello che si può dire anche in radio con il 105, con tutte, con anche con la trasmissione la sera qui a Radio 24, è forse per far sì che sia audience, che sia maggiormente... Ma non è vero, perché non è vero, perché si otterrebbe... No, ripeto... Non è che dire più parolacce è un escamotage per fare ascolto, è una scelta di linguaggio. Io molte volte uso un sistema opposto, contrario, ma corrispondente. Uso parole volutamente difficili, auliche, desuete, che non si usano più, ma è una provocazione. Non è che le usi normalmente nella mia vita. Le uso così per rompere un po' le palle alla gente che mi ascolta. È la mia maniera di dire parolacce, dire parole astruse, parole che non si usano più, capito? Mi diverte inventarmi molte volte parole. Col linguaggio si può scherzare, si può inventare, si possono fare tante cose. Massimo? Sì. Sì. Sì, buongiorno Nicoletti. Nella mia famiglia, ed anch'io non ho la parolaccia nel vocabolario. Non si diceva in casa? No, assolutamente. Però dopo un episodio capitato a mio figlio in quarta elementare, mi sono ritrovato a doverlo svezzare alla pratica. E cosa è accaduto? Praticamente è stato pesantemente insultato da il burro della classe. E lui non sapeva nemmeno. E ne era rimasto davvero scioccato. Tant'è che non capivo che cosa lo turbasse. E una sera me lo sono fatto dire: guarda, questo bambino mi ha detto questo. E che parola era? Che parola era? Ma figlio di puttana. Bastardo. E lui non sapeva cosa volesse dire. No, lo sapeva, ma ne era scioccato, come se avesse subito una violenza. Cioè, aveva capito che è una cosa violenta e crudele, sì, ma non sapeva cosa significasse. Esatto, ho dovuto fargliele scrivere tutte, fargliele pronunciare, perché aveva difficoltà anche a ripetere quello che gli era stato detto. Beh, questo meglio, sennò diventa veramente... Le parolacce bisogna conoscere, che al momento giusto vanno esatto, anche dette. Esatto, ho vanno dovuto anche farle ripetere e da quella volta il mio vocabolario anche con lui si è arricchito ogni tanto di qualche parola. Sì, se no si fanno bambini, si fanno i piccoli lord e poi si vanno a scuola e li prendono per il culo dalla mattina esatto. Alla sera. E purtroppo ho dovuto apposta iniziare ad avere un vocabolario più. Quindi lei più ha preso una lavagnetta, ha cominciato a scrivere sillabando, sì, sul culo, carta, adesso, così. Un pezzo di carta, sì. E tutte. Ripeti. Ripeti questo, quell'altro, ne abbiamo aggiunte altre e niente, si è rasserenato. Mi sembra comunque un intervento didattico molto, molto appropriato, privo di pregiudizi, privo di ipocrisie. Suo figlio aveva bisogno di avere nella cartucciera qualche parolaccia, perlomeno anche per capire quando era insultato cosa significasse. Grazie. Giovanni Chianelli, buongiorno. Buongiorno. Allora, Giovanni Chianelli è il curatore del libro da cui è partita la nostra riflessione, si chiama La parola mala, sì. A destra dell'equatore, un libro fatto da vari autori, destinato proprio a definire quello che dico io, in varie categorie dell'espressione umana, qual è stato il posto delle parolacce. Lei è d'accordo, Chianelli, che la deriva e lo sdoganamento delle parolacce, poi le depotenzia pure del loro forte significato dirompente, non cambiano più nulla ormai. È esattamente una delle riflessioni da cui siamo partiti. La normalizzazione, il cosiddetto avvento del parolaccese, era un pericolo, in qualche maniera un rischio di banalizzazione che, tra l'altro, fra i suoi corollari ha alla perdita di magia del turpiloquio, come tu dicevi. Sì, perché è un termine forte, è quasi un esorcismo la parolaccia, esatto. Una formula magica, certo. Ha un contesto, ha un utilizzo preciso, serve in qualche maniera, è dirompente, ha una forza intrinseca, sentivo l'ascoltatore di prima, di solito i bambini imparano a riconoscere da soli, questa è una cosa quasi magica, no? Perché immagino che avvenga attraverso i loro sistemi neuronali che sono sofisticatissimi, una sorta di riconoscimento delle frequenze e anche delle censure. Chiaramente poi, come tutte le cose che vengono censurate, ha un appeal diverso, quindi ha una storia interessante, diciamo, nei nostri sistemi intellettivi la parolaccia, e questo va omaggiata da una parte, come abbiamo cercato di fare nel libro, e va salvata dal linguaggio di plastica, delle TV, delle frasi fatte. Avremo bisogno comunque di strumenti lessicali forti. Una volta sono depotenziate tutte le parolacce, dobbiamo inventarcene altri tipi di insulti. Questo avviene per esempio a livello di dialetto, e poi qualcuna dal dialetto parte per il linguaggio nazionale. Per esempio a Napoli ce ne sono due o tre che sono diventate piano piano acquisite, mi riferisco a cazzimma, che è una parola che di solito veniva classificata come intraducibile da chi non è napoletano, allo specifico io sono di Napoli. E quindi in qualche maniera si può attingere, ecco, dai dialetti. Che vuol dire? Scusi, sono molto ignorante. So che la parola napoletana è esattamente, non so il contesto. Che significa cazzimma? La cazzimma è la capacità di essere sferzanti in una data occasione, cioè di dimostrare, è una sorta di grinta, però che comprende anche il raggiro. Perciò dico è un po' difficile. Diciamo è una declinazione dell'essere cazzuti. Dell'essere cazzuti, l'essere dritti, esatto. C'è sempre comunque l'esaltazione della virilità, del fascino. Sì. Oppure un'altra parola è che cazzo, che parte dal termine con i cazzi, che in napoletano si dice che, e significa sfizioso. Eppure l'ho cominciato a sentire anche fuori io, Napoli. Io ricordo che il primo personaggio di successo della Litizzetto era Minchia Sabri, era questa ragazza che stava a Torino, però immigrata di famiglia, penso calabrese, immagino siciliana, più facile siciliana, diceva Minchia Sabri, parlava torinese, poi metteva questa sorta, una sorta di migrazione della parolaccia che dal sud va al nord e diventa di uso comune. Adesso, nel senso che dicevi tu prima, il minchia è molto più settentrionale che meridionale, è praticamente l'intercalare di tutta Milano e tutta Torino, chiaramente non nell'accezione originaria, appunto, di organo sessuale maschile. È una semplice interloquire? È un intercalare di chi è stupefatto. Ah, minchia, come dire, sì. Ci sono altre parole, diciamo, che hanno diciamo, fatto un percorso di migrazione. Mi viene in mente che fra un po' avremo le parolacce degli immigrati. Ancora non ho sentito dire parolacce che vengono, diciamo, dalle realtà e dalle etnie dell'immigrazione. Però ci saranno sicuramente, io non le ho ancora sentite. Forse saranno quelle le nuove parolacce. Sì, però si assiste a un fenomeno contrario. Le prime parolacce che di solito utilizzano gli immigrati, insomma, le persone, sono proprio le parolacce. I primi termini che acquisiscono con maggior... E questo, diciamo, fortifica un po' la nostra tesi, che le parolacce abbiano una forza in sé, che insomma le connota... Quindi è uno strumento di colonizzazione, anche di integrazione, la parolaccia. Di integrazione, esattamente. O una misura fisica dell'affetto, quello che noi cerchiamo di dire nell'introduzione, e tu pure lo hai ribadito prima. Con le persone con cui si ha più confidenza c'è più facilità nello scambiarsi parolacce affettuose. Questo io lo trovo molto tenero. Io non so se adesso riescono velocemente a prendermi, ma c'è il fenomeno Bello Figo, che Bello Figo è un rapper africano, di origine africana, ma ormai sta in Italia da tantissimi anni, quindi è italiano a tutti gli effetti. Ultimamente poi è arrivato anche in salottini televisivi, ha avuto uno scontro con Alessandra Mussolini, non capiva la portata. Bello Figo è forte perché a me piace, ha portato è un rapper orrendo, non sa cantare, però fa ridere, è divertente, perché dice esattamente quello che noi pensiamo di peggiore di tutti gli immigrati, capito? Dice voto Matteo Renzi perché ci dà la figa bianca, tutte queste cose impronunciabili, però trovo che faccia ridere, perché poi un ragazzino lo dice anche con candore, è divertente capire che il veicolo dell'emancipazione, quindi dell'integrazione, per lui è fare un rap con le nostre stesse parolacce, portando a un livello di espressione, non voglio dire artistica che è un parolone, comunque quello che per noi è la materia densa del pregiudizio: vengono, non hanno voglia di pagare l'affitto, non è vero che nei loro paesi c'è la guerra, fanno la pipì nei giardinetti, tutte queste cose qua, vogliono le nostre donne, che poi quello è il grande terrore. Marco, sentiamo Marco un attimo. Marco, buongiorno. Ciao Gianluca, niente, io sono toscano, trapiantato a Milano, e io la parolaccia ho iniziato, credo furbamente ora, a usarla sempre meno, perché se no è come un proiettile che non spara più, cioè se ne usa troppe dopo non serve più a nulla. Quando si batte il pugno sulla scrivania, no, nelle riunioni, basta cazzo, se si mette tutto a ridacchiare non succede più nulla. Quindi i ragazzi giovani ormai le usano come una litania, no? Come una canzoncina continua. Usiamole un po' meno, perché così continua a rimanere un proiettilino che ci si può sparare ogni tanto. Quindi lei suggerisce una sorta di astensione parolacciara per ridare forza e valore alla parolaccia. Giovanni Chianelli, sì. Nel mondo antico era usata la parolaccia normalmente, sì, figuriamoci. Sì. C'è tutto un teatro sulle parolacce. Prima parlavi delle parolacce nella Bibbia, è vero che per esempio in Efesini viene detto non esca dalla vostra bocca parola corrotta, però subito dopo in Samuele si trova figlio di una donna perduta, più avanti Sgualdrina, quindi diciamo già dalla Bibbia che raccomandava di fare i bravi con la bocca, in realtà c'è una smentita, ma i greci e i latini ne avevano tantissime. Nel nostro libro c'è per esempio un saggio di Gennaro Carillo, che è un docente di storia del pensiero, che ha scritto proprio ha scritto su Aristofane e le parolacce come sintomo della crisi della democrazia ateniese, quindi c'è una lunghissima storia. L'Italia in questo senso ha un record, perché praticamente nell'anno 1000 viene raffigurata e scritta in una chiesa la prima parolaccia della storia della letteratura moderna, ed è precisamente figli di puttana, e viene pronunciata da un tal Gosmario dopo un miracolo di San Clemente. Quindi, come insomma, prima si era... E qual era il nesso fra il miracolo di San Clemente e questa parola? È il fatto che fossero stati, si era all'epoca delle persecuzioni cristiane, perché la scritta appare nell'anno 1000 ma è riferita al 96 dopo Cristo. Questi due bricconi dovevano incatenare San Clemente, e San Clemente li trasforma in dei massi di pietra. Loro quindi, pensando di dover trascinare due persone, si trovano a trascinare dei massi di pietra e cominciano a insultarsi. Vabbè, non avevano nemmeno tutti i torti. Nicola, velocemente, Nicola. Sì. Nicola. Stacco solo la radio. Sì, l'ascolto, Nicola. Sì, l'ascolto. Nicola? Sì, sono qua. La sto ascoltando. Ah, bene, bene. Salve, signor Nicoletti, complimenti per la trasmissione. L'ascolto quasi tutti i giorni, sono pensionato, sono a casa. Volevo solo dire che io 30 anni fa circa avevo una piccola impresa e lavoravo in una scuola importante di Torino, una scuola superiore, mi ritrovavo a volte, una volta o due, a fare le pulizie con i miei operai, quando c'erano le riunioni dei professori, che erano una trentina, importanti, e lì già parlo di 30 anni fa, io avevo figli adolescenti o poco meno, 12-13 anni, e per il fatto che lì cominciavo a sentire le parole che iniziavano con C, BAP, eccetera, eccetera, eccetera, ma tutto andare. E beh, quello mi lasciava essere fatto, perché io in casa mia, sì, era già successo nell'elementare, nei ragazzi che cominciavano a dire qualche parola, però io e mia moglie dicevamo: no, momento, ferma, mannaggia, guarda un po', ma guarda che roba. Quindi Nicola che entrava a scuola per fare le pulizie con la sua impresa, rimaneva scandalizzato dalla libertà di linguaggio dei docenti, che per essere vicini ai ragazzi, per essere considerati generazionalmente accettabili, per essere considerati privi di tabù, di pregiudizi, politicamente correttissimi, infarcivano di parolacce le loro lezioni, e il povero Nicola che sta lì con lo spazzolone arrossiva e si vergognava. Ci sentiamo tra un istante. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai! Attate, colonnello, io ho carta bianca! E ci si pulisca il culo! Sembra paradossale, ma questa è l'unica volta in cui Totò pronunciò una parolaccia, erano i due colonnelli. Un comico che normalmente si poteva pensare che nel suo ruolo appunto di comico facesse un uso abbastanza disinvolto, il turpiloquio non disse mai parolacce, perlomeno in un film, soltanto in Due colonnelli, però c'aveva con l'ufficiale nazista, quindi c'era un senso in tutto questo. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Corrisponde a verità questa citazione? In assoluto sì, Totò non ha mai usato la volgarità, quindi sentirlo dire culo fu uno strappo nel cielo di carta, della macchina più potente del tritalinguaggio, tritalessemi, che ci fu fornita dal dopoguerra dal cinema italiano. Lui prendeva il linguaggio burocratico, lo fagocitava. Ma scusa, no, Giuseppe, noi abbiamo detto normalmente parolacce, abbiamo sdoganate, però a tutto c'è un limite. Le semi no, ci sono dei bambini che ascoltano a quest'ora, per favore. Le semi è volgarissimo, lo so, e infatti lui li disputava e distruggeva anche la retorica del linguaggio. Lì fu necessario dire questa parolaccia per incarnare ancora una volta una sorta di generale della rovere, l'eroismo che rovesce in uno sberleffo il granitico tedesco. Siamo nella fase assolutoria del cinema del dopoguerra in cui gli italiani sono sempre brava gente, anche se Totò meravigliosamente distrugge anche quella retorica, perché sembra già una stormtrooper col suo casco, cioè il suo elmetto troppo largo, la sua giberna appunto mal portata. È un antiretorico sempre, anche quando vuole incarnare il patriottismo. Allora, Sansonna, devo dire, Giuseppe Sansonna ha scritto un capitolo di questo libro da cui oggi abbiamo preso spunto, La mala parola, curato da Giovanni Chianelli e edito da Ad Est dell'Equatore. Vediamo un po' nel cinema qual è stata poi la deriva della parolaccia, lo sdoganamento della parolaccia. Sì, guarda, le parolacce, se vogliamo, arrivano poi al loro apice col cinema parolacciaro dei Banfi e del mio amico Thomas Milian nei panni del Monnezza, tra l'altra persona che nella vita è lontanissima da ogni volgarità. Banfi era l'ur canosino, l'ur meridionale, che riusciva battendo sullo scranio sfondato come uno scaldabagno, andava in ipertensione, esprimeva forse quella piccola borghesia che virulenta, che vabbè, ma diceva al massimo porca puttena, non mi sembra che fosse sì, sì, sì, poggiava il viso sulle natiche della cassina, diceva perché non parli, no? con la sua solita cadenza, però era una volgarità che si accaniva spesso sui deboli, sugli deformi come Alvaro Vitali, con queste figure tattiliformi che lo circondavano, che erano alle sue spalle. Non era mai rivolta al potere di turno, non c'era lo sberleffo vero. Lui è organico, se vogliamo, il personaggio di Banfi, a volte vende a redi sacri e quindi è devoto alle grandi autorità ecclesiastiche. Non c'è eversione, l'eversione vera, quella che Totò aveva incarnato poco prima, forse ritornerà dopo con Cipriano Maresco. In mezzo ci sono il Volonté che dice minchia nei panni dell'iperpoliziotto metafisico di Indagine sui cittadini di Somma di Sospetto, oppure alla catena di montaggio un pezzo un culo cerca di scandire il ritmo del Cottimo appunto immaginando delle natiche che conosce e che quindi stimolano il desiderio, il rapporto fra la macchina. Sì, però e al di là del cinema di genere, il cinema panettone, chiaro, sono tutti parolacce, la commedia salace italiana erano tutte parolacce, i decamerotici c'erano parecchie parolacce, anche se arraffazzonate, una sorta di linguaggio rinascimentale medievale arraffazzonato, però una specie di viterbese addomesticato. Ecco, nel grande cinema, il cinema aulico, quali sono le parolacce che ci si ricorda perché avevano proprio questo senso dirompente, non se le aspettava? Beh, io ti stavo proprio appunto citando un cinema iperautoriale, Volonté, nel cinema di Petri, nella Classe Operaia in Paradiso, era questo la dirompenza, non era un cinema di genere, proprio iperautoriale, e lì si racconta l'ossessione, lì la parola culo serve appunto a farti uscire dalla costrizione della catena di montaggio, a creare un miraggio nelle natiche, un altrove verso cui salpare per dimenticarsi di essere al giogo della catena di montaggio. Oppure lì c'è tutto scelba quando Volonté dice minchia, ma che minchia c'entrano le bombe con la democrazia, no? C'è tutto un lavoro sulla strategia della tensione, un'allusione a mondi oscuri. Insomma, lì una parola apre un universo, apre una visione del mondo. Però erano bei tempi. Se pensi che, ti ho detto, negli anni 70, metà degli anni 70, Zavattini cacciato dalla RAI, forse perché lo disse volontariamente, non è che era in un contesto, disse adesso dico una parolaccia, disse questa parola qua, sì. E gli procurò l'ostracismo da tutti i canali pubblici, capito, per anni, era il padre del neorealismo. C'era un centellinare, probabilmente, se tu ti ricordi questi esempi, non erano molto usati. Non erano molto usati. Oggi, tu citavi prima i cinepanettoni sono lo sbrago della volgarità che appiattisce tutto, che appiattisce le classi sociali, appiattisce, non ha nulla di eversivo, è un puro compiacimento, ormai suonano come necessità da dire, scandiscono anche delle risate pavloviane del pubblico che ride. Ma infatti cosa ricordi di cinepanettoni come il termine che suscita qui la rità, la crasi? La crasi che quando De Sica dentro la vasca, Ghini dentro una vasca da bagno dice hai fatto una crasi, lui dice ma perché, no. Strano, non si vedono le bollicine sulla buzzicozza, buzzicona e cozza, sì, una crasi, la citazione da manuale latino. Ecco, su questa sublime lettura di Giuseppe Sansonna ci lasciamo, ricordo La parola mia a cura di Giovanni Chianelli, un bel libro sulle parolacce, la storia della parolaccia. Oggi ne abbiamo dette qualcuna, ma non tante poi, rispetto alla norma. A domani.